Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi vi parlo di un esordiente molto particolare, perché questo è il suo primo romanzo, però il nome non vi è sconosciuto. Lui si chiama Ivano Fossati, probabilmente il nome vi dice qualcosa, insomma, non ha bisogno di presentazioni per noi. Il suo primo romanzo si intitola 335 ed è stato pubblicato da Einaudi nella collana Stile Libero Big. Un romanzo, Ivano, tu hai già dichiarato più volte che non è assolutamente autobiografico, che hai voluto fare un'opera di pura fiction, questo è il tuo vero primo romanzo. Ma allora perché hai fatto in modo che il protagonista fosse un musicista, uno che inizia appunto a suonare la chitarra, 335 appunto è la famosa chitarra che lui suona e che tu stesso hai suonato, e poi insomma si seguono tutte le sue vicende? Perché hai deciso di scrivere un romanzo su un musicista? Perché è il mondo che conosco, perché sono le cose che conosco. Se il mio protagonista avesse fatto il medico, se io avessi deciso di fargli fare il medico, il libro sarebbe stato la metà. Invece di 400 pagine ne avrei scritte forse 100, perché non avrei mai saputo raccontare il suo mestiere, ma anche se avesse fatto il falegname non avrei saputo. Mi occorreva uno scenario ampio per la storia vera del libro, che è quella dei suoi sentimenti, con la famiglia, il suo passato, e questo scenario non poteva essere altro che la musica, se io volevo essere in grado di raccontarlo e di raccontarlo con molti dettagli. Di essere credibile, insomma, di raccontare una storia di fiction, però credibile. Il protagonista è Vittorio. Il romanzo inizia, potremmo dire, con la fine, nel senso che lui fa una riflessione sulla sua vita, capisce, insomma, che è arrivato ad una certa età e fa un viaggio a ritroso nel tempo. Infatti il libro è scandito per capitoli proprio per anni, dagli anni 70 per poi arrivare ai giorni nostri. E si capisce che quest'uomo vuole lasciare, come dire, un'eredità emotiva, intima, al figlio, ma soprattutto al nipote. Perché se ne accorge solo a una certa età? Perché quella è l'età in cui puoi pensare che i ricordi comincino ad evaporare. Puoi cominciare a pensare di non ricordare più tutto di te stesso. E quella è la paura, il timore che prende a lui. E vuole che i due ragazzi, che poi insomma il figlio non è tanto più un ragazzo, ha già 40 anni, vuole che siano anche un po' orgogliosi della famiglia da cui provengono, perché è una famiglia disgregata e perché lui ne è stato sempre lontano, ma vuole fargli capire che c'è qualcosa di buono, che non è tutto da nascondere, e per fare questo deve riscriverlo dall'inizio, a partire dagli anni 50, e con fatica, perché è un uomo che non ha studiato, quindi scrive questo con fatica, con un linguaggio molto basso, con un linguaggio terra a terra, e lo fa per i due, per il nipote e per il figlio, e lo fa anche per se stesso, perché sa che se lui ha sbagliato qualcosa, e qualcosa ha sbagliato di sicuro, se non c'è una confessione non può esserci nemmeno un perdono, e lui lo va cercando. Poi la verità è che noi scopriamo verso la fine che forse quest'uomo non ha bisogno di un perdono, ma semplicemente di un riscatto, e questo riscatto è una donna che glielo dà. Le donne hanno una certa importanza in questo romanzo, naturalmente, perché lui ha delle relazioni sentimentali con Annette, ha il figlio appunto Alan, lei a un certo punto glielo porta via, si separano, insomma, lui quindi lui si considera forse un cattivo padre, è stato un cattivo padre, e come compagno di vita com'è stato? Lui è stato un ottimo compagno di vita soltanto per la moglie, con tutte le altre donne sbaglia qualcosa. E con tutti gli amori e amori e amorazzi che incontra nella sua vita si comporta in maniera molto maschile, forse non maschilista, ma maschile sì, perché bisogna ricordare che si forma, non avendo studiato, si forma alla scuola delle orchestrine da ballo, quelle che girano negli anni 50 e 60 l'Europa. E quindi i pensieri che circolano nelle orchestrine non sono molto elevati. Ma lui se ne riscatta molto lentamente, durante le 400 pagine riesce ad avere dei pensieri che si innalzano sempre di più, anche se ha un po' timore dei pensieri che si, che si innalzano, qualche volta pensa addirittura che non siano i suoi. In un certo senso questo può essere anche considerato un romanzo di formazione, perché vediamo il percorso emotivo ma anche professionale del protagonista. Dai primi anni abita nel Vercellese, quindi in Piemonte, in cui è costretto a fare degli studi, insomma, che lui non gradisce, al momento in cui decide che vuole fare il musicista. Andrà in Inghilterra, poi addirittura negli Stati Uniti e così via. Cos'è che spinge Vittorio verso la musica? C'è una passione più forte di qualsiasi cosa? Almeno in questo c'è un po' di te, in questo romanzo? Cos'è che spinge? Non si sa mai cos'è che ti spinge verso la musica. Cioè, credo che nessun musicista o suonatore, io nel caso di Vittorio Vicenti dico che è un suonatore, non lo sa nessuno. Davvero, nessuno può dire qual è stata la scintilla. Io ricordo che mi mandarono a imparare il pianoforte a 8 anni e non ne volevo sapere. Fino a 14 anni la musica mi è sembrata una fatica, no? Non avrei mai pensato di dedicarmi alla musica. Poi a 14-15 anni, con l'arrivo di un altro tipo di musica, che tutto stava cambiando intorno al 64-65, ecco che me ne sono innamorato. Ma di che cosa io in particolare mi sia innamorato ancora non lo so. Sappiamo che Ivano Fossati ha dichiarato, ormai insomma lo sanno anche i muri, diciamo così, nel 2012, che insomma l'hai detto pubblicamente che non andrai più sul palco, insomma non farai concerti, non farai nuovi dischi. Certo, non è mica un divorzio dalla musica, perché la musica resta sempre in te. E invece, come scrittore di narrativa, pensi che questo romanzo, questo 335, possa essere il primo passo di una nuova passione, di una nuova carriera, o ancora non ci hai fatto i conti con questa cosa? Non ci ho fatto i conti. Poi tu hai detto una parola grossa, che è scrittore, e io non sono uno scrittore e non so neanche se lo diventerò. Sono uno che racconta, che prova a raccontare delle storie meglio che può. Sono un lettore e io ho scritto questo libro da lettore. Ecco cosa ho fatto, pensando che le cose che emozionano me, forse potrebbero emozionare anche gli altri, ma è l'unico calcolo tecnico che ho fatto, perché altri non ne sapevo fare. Poi, per quanto riguarda il continuare, non lo so, se mi chiederanno di scrivere ancora ci penserò, se troverò un'idea forse sì, insomma dipende molto anche da come vivrò questo momento. Però insomma ci hai messo un paio d'anni, mi sembra, per scrivere questo romanzo, un anno per scrivere questo romanzo. È stato un anno insomma ricco, intenso. È stato un anno ricco, bello, anche perché il libro mi ha portato lontano, mi ha portato in giro, ho dovuto fare i sopralluoghi come se si trattasse di un film. Questo mi ha divertito moltissimo, mi ha interessato moltissimo, quindi non so, se dovessi scrivere ancora, mi piacerebbe scrivere cose che mi portino ancora lontano. Io quando ho letto questo libro, se non avessi saputo che l'ha scritto Ivano Fossati, non l'avrei ricollegato a te. Cioè, lo trovo molto molto diverso dai testi delle tue canzoni, dalla sensibilità espressa nei testi delle canzoni e così via. Pensi che il cosiddetto fan, diciamo, di Ivano Fossati, e che magari va a leggere questo libro, può trovarsi spiazzato, deluso, o magari contento di trovare qualcosa di nuovo? Spiazzato potrebbe darsi, però le persone che hanno seguito la mia musica si sono trovate spiazzate così tante volte che io credo che ormai abbiano fatto l'abitudine, e probabilmente potrebbe anche piacergli questo fatto. Ho cercato in tutti i modi di non somigliare a Ivano Fossati delle canzoni, perché mi sarebbe sembrato così come tirare un elastico o una coperta. Ho cercato di fare in modo che non ci fosse continuità fra le canzoni e il romanzo, e quindi di cominciare una cosa davvero nuova, anche per me, anche per appassionarmi in modo differente. Grazie a Ivano Fossati, un esordiente d'eccezione, possiamo definirlo così, autore di 335, un romanzo pubblicato da Einaudi. Vi ricordo che questa sera, dopo il GR delle 22, potrete ascoltare la versione più estesa del Cacciatore di Libri. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.